ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Prima puntata. Guardate, io sto morendo. La bufera mi canta il mio canto funebre e io ululo con lei. Perduto, sono perduto. Un mascalzone con il suo berretto lircio, il cuoco della mensa per l'alimentazione normale degli impiegati del Soviet centrale dell'economia popolare, mi ha schizzato addosso dell'acqua bollente e mi ha scottato il fianco sinistro. Che canaglia! E per di più si tratta di un proletario. Signore Dio mio, che male! L'acqua bollente è penetrata fino alle ossa. E adesso ululo, ululo, ululo. Ma che mi servirà questo mio ululare? Che gli avevo fatto? Che cosa? Possibile che si derubi il soviet dell'economia popolare se si fruga tra la spazzatura? Avida creatura. Quando vi capita, guardategli un attimo il muso. È più largo che lungo. Un ladro con il grugno di bronzo. Ah, gli uomini, gli uomini. Il tipo col berretto mi ha servito l'acqua bollente a mezzogiorno e adesso è calato il buio. Sono più o meno le 4 del pomeriggio, a giudicare dall'odore di cipolla che viene dal comando dei pompieri di via Precinstenska. I pompieri a cena mangiano polenta, come ben sapete, ma si tratta dell'ultima risorsa, un po' come i funghi. Dei cani che conosco d'altronde della Precinstenska raccontavano che in un vicolo al ristorante bar si mangia il piatto del giorno, funghi in salsa piccante, a 3 rubli e 75 copeche a porzione. È una questione di gusti, un po' come leccare una caloscia. Il fianco mi fa un male da morire e quello che mi attende mi si para dinanzi con assoluta precisione. Domani compariranno le piaghe e c'è da chiedersi come farò a curarle. D'estate è possibile fare una capatina a Sokolniki. Laggiù c'è un'erba particolare, ottima, e oltre a ciò ci si rimpinza gratis di culetti di salame. I cittadini buttano via cartacce unte, roba da leccarsi le zampe, e se non ci fosse un qualche vecchio imbronciato che canta la luna sul prato, celeste Aida, in un modo da farvi stringere il cuore, si starebbe alla perfezione. Mentre adesso, d'inverno, dov'è che si può andare? Vi hanno mai pestato con lo stivale? A me sì. Vi siete mai beccati un mattone sulle costole? Io ne ho avuti a sufficienza. Ne ho passate di tutti i colori. Mi concilio con la mia sorte e adesso piango non solo per il dolore fisico e per il freddo, ma perché il mio spirito non si è ancora spento. È resistente il mio spirito canino. Ma ecco il mio corpo, storpiato, percosso, gli uomini lo hanno profanato a sufficienza. E la cosa peggiore, tuttavia, è stato il modo in cui mi ha buttato addosso l'acqua bollente. È penetrata sotto al pelo, di modo che per il fianco sinistro non ci sono difese. Mi posso beccare con grande facilità una polmonite. E una volta che l'avrò beccata, io, cittadini, creperò di fame. Con una polmonite si deve stare distesi nell'atrio dell'ingresso principale sotto alla scala e chi se ne andrà al posto mio, cane e scapolo, a correre da una pattumiera all'altra alla ricerca di cibo? Mi andrà in malore un polmone, striscerò sul ventre, mi infiacchirò e un qualsiasi specialista potrà finirmi a bastonate. E i portieri con i distintivi mi piglieranno per le zampe e mi butteranno sul carretto. I portieri, tra tutti i proletari, sono la sozzura più abominevole, gli scarti dell'umanità, la categoria più scadente. Di cuochi invece ne capitano di ogni specie. Per esempio il defunto Vlas di via Precinstenska. A quanti ha salvato la vita? Perché la cosa più importante nel momento della malattia è buttar giù un boccone. Ed ecco, capitava, raccontavano i cani veterani, che Vlas agitasse un osso e sull'osso un bel mezzetto di carne. Che il cielo gli renda gloria per essere stato un vero uomo, un cuoco di boiardi, il cuoco dei conti Tolstoi e non del soviet dell'alimentazione normale. Quello che riescono a combinare all'alimentazione normale non è comprensibile per la mente canina. Quelli, canaglie, ti fanno la zuppa con la carne salata marcia. E la gente, poveraccia, nemmeno lo sa, arriva di corsa, ingurgita il tutto, lecca il piatto. A una piccola dattilografa di nona categoria spettano 4 soldi. Beh, mettiamo pure che l'amante le regali delle calze in filo di Persia, ma quante mortificazioni le tocca sopportare per quel filo di Persia. Arriva di corsa la piccola dattilografa, perché con i suoi 4 soldi al bar non ci puoi certo andare. Non le bastano nemmeno per il cinema, e il cinema per le donne è l'unica consolazione della vita. Rabbrividisce, storce la bocca, ma ingolla. E pensare che si fanno pagare 40 copechi per 2 portate, e tutte e due le portate non ne valgono nemmeno 15, perché le restanti 25 se le è messe in tasca l'amministratore. Ma che se ne fa a lei di quella roba? Ha anche l'apice del polmone destro in disordine e una malattia femminile di tipo francese. Al lavoro le hanno trattenuto dei soldi sullo stipendio. In mensa le hanno dato da mangiare cibo avariato. Ma eccola, eccola, corre nel portone con le calze dell'amante. Ha i piedi gelati, ha freddo la pancia, perché il pelo che ha addosso è più o meno come il mio, e le mutande le porta leggere, così una parvenza di pizzo. Uno straccetto per l'amante. Si fosse messa quelle di flanella, ci avesse solo provato. Lui si sarebbe messo a urlare: «Come sei sciatta! M'ha stufato la mia matriona! Ho già sofferto abbastanza con le mutande di flanella. Adesso è giunto veramente il mio momento. Adesso sono presidente e tutto quello che riuscirò a ficcarmi in tasca lo spenderò tutto, tutto in un corpo di donna, in code di gamberi, in champagne. Perché in gioventù ho già fatto la fame a sufficienza, basta così, e la vita dell'oltretomba non esiste». Provo pena per lei, una gran pena, ma io faccio ancora più pena. Non sto parlando per egoismo, oh no, ma perché le nostre condizioni sono effettivamente differenti. A casa sua perlomeno fa caldo, mentre io dov'è che posso andare? Pesto, ustionato, coperto di sputi, dov'è che posso andare? Tu, Sharik, ehi, Sharik, chi ti ha fatto del male? Oh! Quella strega di una tormenta di neve secca si mise a far rimbombare il portone e come un colpo di scopa passò sull'orecchio della signorina. Le rialzò la gonnella fino alle ginocchia, mise a nudo le calze color crema e una stretta strisciolina di biancheria di pizzo mal lavata. Soffocò le parole e coprì il cane di neve. Dio mio, che tempo! Oh, e mi fa male la pancia, colpa della carne salata, di quella carne schifosa. E quando mai avrà fine tutto questo? Chinato il capo, la signorina si lanciò all'attacco, si aprì la strada oltre il portone e nella via la tormenta cominciò a farla vorticare, a strapazzarla. Quindi le si abitò attorno in un vortice di neve e la ragazza scomparve. Mentre il cane se ne rimase sotto al portone, e soffrendo per il fianco deturpato si strinse al gelido muro maestro. Gli mancò il respiro e prese la ferma decisione che da lì non sarebbe più andato da nessuna parte, che avrebbe tirato le cuoia sotto a quel portone. La disperazione si abbatté su di lui. Aveva l'anima talmente amareggiata, talmente colma di solitudine e paura, che rade lacrime canine simili a piccole pustole presero a sgorgargli dagli occhi per poi subito asciugarsi. Il fianco rovinato emergeva coperto di ciuffi di pelo gelati, tra i quali occhieggiavano le macchie rosse e funeste delle ustioni. Quanto sono assurdi, ottusi, crudeli i cuochi. Sharik lo aveva chiamato, ma che diavolo di Sharik era lui? Sharik significava essere tondi, ben pasciuti, stupidi, mangiare pappa d'avena, essere figli di genitori fortunati, mentre lui era irsuto, uno spilungone tutto lacero, un bighellone magro come uno stecco, un cane randagio. D'altronde, grazie a lei per le buone parole. La porta del negozio, illuminato a giorno dall'altra parte della strada, sbatté e ne spuntò un cittadino. Proprio un cittadino e non un compagno, anzi, con ogni probabilità, un signore. Da vicino fu più chiaro, un signore. Pensate forse che giudichi dal cappotto? Una sciocchezza. Adesso il cappotto lo portano anche molti proletari. È vero, i baveri non sono gli stessi, di questo non vale nemmeno la pena di parlare, ma tuttavia da lontano è possibile confonderli. Ma gli occhi, lontano o vicino che siano, non è possibile confonderli. Oh, gli occhi sono una gran cosa. Sono una sorta di barometro. Si vede tutto. Chi ha una grande aridità nell'anima, chi senza il minimo motivo può assestare un calcio nelle costole con lo stivale e chi a sua volta invece ha paura di tutto. Ed è proprio a quest'ultimo lacché che fa piacere azzannare la caviglia. Hai paura e beccatela. Se hai paura significa che te lo meriti. Il signore attraversò con passo sicuro la via in un vortice di tormenta e s'avviò verso il portone. Sì, sì, con questo qui è tutto chiaro. Questo non è il tipo che si ingozza di carne salata andata a male. E se da qualche parte dovessero anche dargliela, ne tirerebbe fuori un tale scandalo che ne scriverebbero anche sui giornali. A me, Filip Filippovic, han cercato di far mangiare una schifezza. Eccolo sempre più vicino, più vicino. Questo è uno che mangia in abbondanza e che non ruba. Questo non si metterà a menar calci, ma lui stesso non avrà paura di nessuno e non avrà paura perché è eternamente sazio. È un signore che fa un lavoro intellettuale con una barbetta appuntita da persona civile e i baffi canuti, morbidi e spavaldi come quelli dei cavalieri francesi. Ma l'odore che la tormenta porta in giro e che da lui proviene è schifoso. Sa di ospedale e di sigaro. Viene da chiedersi quale spirito dei boschi lo abbia mai portato nella cooperativa del centro Coz. Eccolo, è qui accanto. Che sta cercando? Che cosa mai può aver comprato in quel misero negozietto? Che cosa mai? Salame. Signore, se avesse visto come fanno quel salame, non si sarebbe nemmeno avvicinato al negozio. Lo dia a me. Il cane raccolse le forze che gli restavano e, come impazzito, strisciò fuori dal portone sul marciapiede. La tormenta cominciò a sgorgare a fucilate sulla sua testa. Fece sbattere le enormi lettere di uno striscione di tela con la scritta «È possibile ringiovanire?» «Certo che è possibile. L'odore mi ha ringiovanito. Si è sollevato dal ventre, a ondate ardenti ha serrato lo stomaco vuoto da 2 giorni». L'odore ha avuto la meglio su quello d'ospedale, l'odore paradisiaco di carne di cavallo tritata con aglio e pepe. Lo sento, lo so, nella tasca destra della sua pelliccia c'è del salame. Lui è sopra di me. Oh mio signore, guarda, mi sto morendo. Anima nostra, anima di schiavi, destino infame. Il cane strisciò come un serpente sul ventre, gli occhi pieni di lacrime. La prego di prestare attenzione al lavoro del cuoco, ma tanto lei non darà nulla per nessun motivo. Oh, li conosco bene i ricchi, ma in sostanza che le serve? Che gliene viene della carne di cavallo marcia? Un simile veleno non lo troverà da nessuna parte se non al Mossel Prom. E lei quest'oggi ha fatto colazione, lei, celebrità di fama mondiale, grazie alle ghiandole sessuali maschili. Ma cosa sta accadendo in questo vasto mondo? Si vede che per morire è ancora presto e la disperazione è davvero un peccato. Leccargli le mani, altro non resta da fare. L'enigmatico signore si chinò verso il cane in uno scintillio di cerchi dorati attorno agli occhi ed estrasse dalla tasca destra un involto bianco e dalla forma allungata. Senza sfilarsi i guanti marroni, svolse la carta, di cui subito si impadronì la tormenta, e staccò un pezzo di salame, detto Cracovia speciale, e il pezzo al cane. Oh, anima altruista! Fischiettò il signore e soggiunse con una voce assai severa. «Piglia, Sharik! Sharik!» «Ancora Sharik, eccomi battezzato, ma mi chiami pure come vuole, per questo suo gesto così eccezionale.» Il cane sull'istante lacerò la pelle del salame, azzannò con un singulto il Cracovia e lo divorò in un boccone. Nel far ciò, salame e neve gli andarono per traverso fino a farlo lacrimare, perché per ingordigia ci mancò poco che inghiottisse anche lo spago. Ancora, ancora, le lecco la mano, le bacio i pantaloni, mio benefattore. Per ora basta così. Il signore parlava a scatti, come se stesse dando degli ordini. Si chinò verso Sharik, lo scrutò negli occhi con uno sguardo indagatore e inaspettatamente passò la mano inguantata sulla pancia di Sharik con un gesto confidenziale e affettuoso. «Ah, un maschio!» proferì con tono significativo. «Niente collare, perfetto, proprio quello che mi ci voleva. Vieni con me!» Fece schioccare le dita. «Seguirla, anche in capo al mondo, mi pigli pure a calci sul muso con le sue soprascarpe di feltro, non dirò una parola!» Lungo tutta la via Precinstenska scintillavano i lampioni. Il fianco doleva terribilmente, ma Sharik di quando in quando se ne scordava, inghiottito da un unico pensiero: non perdere nella calca la prodigiosa visione in pelliccia ed esprimerle amore e devozione. E per ben 7 volte lungo tutta la via Precinstenska, fino al vicolo Abukov, egli li espresse. Con un selvaggio ululato spaventò una signora al punto da farla sedere su un paracarro. Un paio di volte uggiolò per mantener viva la pietà nei suoi confronti. Una qualche canaglia in forma di gatto vagabondo travestito da siberiano fece la sua comparsa da dietro una grondaia e a dispetto della tormenta colse l'odore del Cracovia. Sharik perse il lume degli occhi al pensiero che il ricco stravagante che andava raccattando cani feriti nei portoni potesse portarsi dietro anche quel ladrone e che alla fine toccasse dividere con lui il prodotto del Mosselprom. Per questo motivo mostrò i denti al gatto in modo tale che quello con un sibilo simile a un tubo di gomma bucato s'arrampicò su per la grondaia fino al primo piano. Via! Non c'era mica abbastanza Mosselprom per qualsiasi accattone si trovasse a passare per via Precinstenska. Il signore apprezzò la devozione e proprio nei pressi della caserma dei pompieri, accanto a una finestrella da cui usciva il gradevole borbottio di un corno, premiò il cane con un secondo pezzo, un poco più piccolo, di una ventina di grammi. Che tipo strano, sta cercando di attirarmi. Non si preoccupi, non me ne vado da nessuna parte. La seguirò ovunque lei mi dirà di andare. Vieni qui! In vicolo Abukov, come desidera. Lo conosciamo bene, questo vicolo. Di qui compiace... Ah, no, scusi tanto. No, lì c'è un usciere. E al mondo non c'è nulla di peggio. Molto più pericoloso di un semplice portinaio. Una razza assolutamente odiosa, più schifosa dei gatti, uno scortichino con tanto di galloni. Su, non aver paura, vieni! La riverisco, Filip Filippovich. Salve, Fyodor! Ecco un'autentica personalità. Dio mio, con chi mai mi ha fatto incontrare la mia sorte canina? Chi mai sarà costui che può far passare accanto a un usciere un cane di strada e farlo entrare in un'associazione inquilini? Quella canaglia non ha detto bah, non si è nemmeno mossa. A dire il vero gli occhi sono foschi, ma nel complesso è indifferente sotto alla tesa del berretto con i galloni dorati. Come se andasse bene così. Lo rispetta, signori. Quanto lo rispetta. Beh, e io sono con lui e lo seguo. Cos'è, ti secca? Morditi la lingua e sta zitto. Potergli azzannare il calloso piede proletario. Per tutti gli scherni inflitti dai fratelli tuoi, quante volte mi hai sfigurato il muso con la scopa, eh? Su, vieni! Abbiamo capito, non stia a preoccuparsi. Dove va lei, io la seguo. Basta solo che lei mostri la strada e io non resterò indietro, nonostante il mio fianco acciaccato. Dalle scale verso il basso. Niente lettere per me, Fyodor! Dal basso verso le scale, con fare rispettose. No, nessuna, Filip Filippovich! Con fare confidenziale, a mezza voce, mentre lui si allontana. Ma nell'appartamento numero 3 hanno sistemato dei nuovi inquilini. L'autorevole benefattore canino fece un brusco giro su se stesso, sul gradino, e sporgendosi dalla ringhiera domandò in preda all'orrore. Cosa? Gli occhi gli si fecero tondi e i baffi gli si rizzarono. L'usciere dal basso rovesciò la testa verso l'alto, portò il palmo della mano alla bocca e confermò. Proprio così, ben 4 persone. Dio mio, posso immaginare quello che succederà adesso nell'appartamento. E loro? Niente. E Fyodor Pavlovich? È andato a prendere dei paraventi e dei mattoni, metteranno dei tramezzi. Che dannatissimo affare. Ne sistemeranno in tutti gli appartamenti, Filip Filipovic, tranne che nel suo. C'è appena stata una riunione e hanno fatto una delibera, nuovi rappresentanti, e quelli di prima li hanno messi alla porta. Che fare? Ai ai ai ai ai. Arrivo, mi sbrigo. Il fianco, se vuole dare un'occhiata, si fa sentire. Mi permetta di leccarle lo stivaletto. Il gallone dell'usciere scomparve giù da basso. Sul pianerottolo di marmo si avvertiva il calore dei tubi. Ancora una svolta ed ecco il piano nobile. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.